Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Pronti per il soundcheck di questa sera qui su Radio 24 dal Groovemaster Studio. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo, buonasera al nostro super redattore qui nel Groovemaster Studio, Messie Francesco Trombà. Ciao a tutti. Ti è piaciuto con l'accento francese? Come mai questo accento francese? Perché oramai stai diventando internazionale, quando si diventa delle star multimediali subito via streaming il nome fa il giro del mondo. Addirittura. Sì, mi scrivono da Parigi per te. Pure. Sì, vorrebbero fare uno special su di te. Lo special. Uno special su Francesco Tromba. Non è vero, naturalmente, non ti montare. Mi sembrava strano. Anzi, io voglio subito approfittare per dirti che questa sera sono particolarmente felice, finalmente, di ospitare ancora una volta nel Groovemaster Studio un mio amico, una persona che conosco molto bene, che conosco bene sotto vari punti di vista. Conosco la sua storia benissimo, conosco le sue opere benissimo e sono contento del ritorno in studio, anche perché così finalmente posso elevare gli argomenti, perché con te Francesco non faccio altro che parlare di 'nduja, peperoncino piccante, la parmigiana di nonna. Mi hai un po' stufato. Beh, anche di belle ragazze, di belle ragazze, ma anche di musica. Oggi invece vorrei fare un discorso trasversale, me lo posso permettere, diventare un pelo, ma dico un pelo intellettuale, forse più concettuale, ma cercare di spostare la accento dalla musica all'arte in genere, più che altro alla creatività. A volte si dice prendi l'arte e mettila da parte, e quindi oggi cercheremo di fare ampliare le nostre vedute. Eh sì, nutriamo un po' la nostra mente. E allora, madame e messieurs, ladies and gentlemen, signore e signori, date il benvenuto con un caloroso applauso. Tromba, facciamo un applauso, sarà triste, ma lo facciamo, al maestro Felice Limosani. Ciao, anzi, Felice Limosani. Felice Limosani, che bellezza. Felice, come stai? Molto bene, grazie, ciao a tutti. Ecco, tu sei stato nostro ospite, credo l'anno scorso, un paio di anni fa, adesso non ricordo. Un paio d'anni fa. Perché sì. siamo arrivati quasi alla puntata 400, quella di questa sera, la numero 396, quindi ho le idee un po' confuse. Vabbè, comunque l'importante è rivedersi, nel frattempo 2 anni sono passati. È già importante esserci, è vero? Certo, con il sorriso, positivi, e soprattutto con tante cose belle da raccontare, perché sai, in 2 anni... possono accadere, ma possono anche non accadere le cose, per cui poi siamo qui a raccontarcele e a condividerle anche con chi ci ascolta. È vero. Allora, io intanto, per ricordare agli amici di Radio 24 professionalmente la figura di Felice Limosani, vorrei dirti questo. Tempo fa, quando io parlavo di te, o anche con te, dicevo, ma tu sei un grande artista, fai delle cose, dei capolavori, tu invece con grande modestia ribattevi, no, ma io non sono un artista, io sono un creativo, sono un visionario, sono un digital storyteller, giusto? Sì, era, sì. Era quello che dicevi. Era il momento giusto per... Sai, quando le cose nuove accadono non sempre hanno le parole giuste per essere definite. A un certo punto, invece, quel tipo di approccio alla creatività e all'arte cominciò ad avere una dimensione anche, come dire, espressiva. Quindi lo storytelling diventò poi il mio lavoro, inconsapevolmente. Anche se oggi si è evoluto e direi che non sia più possibile parlare di storytelling, ma di altro. Di altro, ma è facile per me dirlo, perché possiamo parlare di arte contemporanea, perché la realizzi oggi, no? Sì, allora, diciamo che oggi mi sento meglio nelle vesti di artista. Oh, finalmente ci siamo riusciti. Sono contento che tu abbia preso questa consapevolezza, no, perché però... chi è più artista di te in questo momento? No, guarda. No, piedi, il mio voto è testa per aria e piedi nel cemento. Giusto per non smentirmi, vorrei precisare, perché non è falsa modestia, ma l'arte è una cosa, a mio avviso, riconducibile nella mia visione visione delle cose a chi si occupa di scultura, pittura, i grandi musicisti, i grandi poeti, la narrazione intesa di chi scrive. Ecco, quelle secondo me sono delle forme di arte, se vuoi, anche tradizionali. Consolidate. Consolidate. Oh. Nel nostro caso, invece, soprattutto nel mondo contemporaneo, siamo disposti ad accettare il concetto della società liquida, figuriamoci se non sia la creatività altrettanto liquida. Per cui mi definirei un new media artist. Beh, questo è bellissimo, applauso! Invece io non ho ancora capito se Francesco Tromba è un artista o un artistoide. Magari ne parliamo. Sicuramente perché non sono un artista. Ecco, allora sarei un artistoide. Poi cerchiamo di capire con Felice Limosani i limiti, no? Però andiamo alla musica, Tromba. E qui c'è la tua arte, la tua preparazione. Facciamo una cosa, ascoltiamo subito il primo brano senza dire nulla e poi ne parliamo. So what do I do? Loro erano i Playlist, che è un progetto di DJ Jazzy Jeff, che è un attore, nasce come attore, oltre ad essere un DJ. Lui era praticamente Un veterano dell'hip hop. Ve lo ricorderete in molti della mia età, se lo ricorderanno, perché aveva una parte in Il Principe di Bel-Air. Lui faceva l'amico di Will Smith. Di Will Smith, esatto. Sì. Ha fatto questo progetto che si intitola proprio The Playlist, organizzando una mega jam in casa sua, nel suo studio di casa, e ha coinvolto tantissimi artisti. La sua idea di questo progetto era quella di riprodurre questa jam il più possibile in un disco. Direi che c'è riuscito abbastanza bene. C'è riuscito abbastanza bene, perché ha coinvolto un grande artista, una bellissima voce e un signore che insomma ha detto la sua per la black music, che è Glenn Lewis. Eh sì, tantissimi sono i musicisti presenti in questa session. Ci sono Jeff Bradshaw, Tall Black Guy e tantissimi altri. Quindi da non perdere questa produzione targata Soundcheck, perché oramai è diventato uno dei nostri punti di forza andare a scovare cose nuovissime che molto spesso non ci arrivano, lo ripetiamo, attraverso la discografia ufficiale, ma la discografia digitale. A questo punto liquida. Io vorrei liquida, la discografia liquida, vorrei subito coinvolgere il maestro Limosani in questa discussione, perché Felice Limosani è voilà. Presente, voilà. È presente con Francesco Tromba. Allora, no, guardate, facciamo una cosa, visto che io ho anche il polso dei tempi e delle durate, facciamo una cosa, ascoltiamo un altro brano di Glenn Lewis con il progetto The Playlist e poi ci risentiamo qui dal Groovemaster Studio, perché ho qualcosa da chiederti, Felice, sull'arte liquida. Voilà. Soundcheck, il suono della musica. E questo è il sound francese, l'ho scelto apposta per Felice Limosani e Francesco Tromba qui nel Groovemaster Studio di Radio 24, la band Electrofaz. A me piace tantissimo il sound di questo nuovo album di questi ragazzi, album appena pubblicato, il brano era The Stars. Sì, Felice Limosani, ormai accreditato artista multitasking, multimediale, artista di cose liquide e non, è presente nel nostro studio, ha più collaborato. Più semplicemente multidisciplinare. Multidisciplinare, va bene, applauso subito. Anche questa è una bella parola. Multidisciplinare, che ha prestato la sua creatività, lo posso dire, a alcuni fra i marchi più importanti sul pianeta. Il che non è stata una cosa cattiva, una cosa buona, no? No, decisamente, anche perché le grandi brand sono sempre più dei laboratori dove poter sperimentare nuovi linguaggi, indipendentemente dal linguaggio pubblicitario, che è un altro ambito. Spesso le grandi brand si pongono come dei mecenati, cioè finanziano dei progetti creativi che non sono volti a vendere qualcosa, ma a esprimere un'idea, a raccontare una storia estetica. Senti, e ne hai un paio che possono supportare anche le mie imprese? A questo punto, se me li puoi consigliare. Ma a parte che tu non hai bisogno di supporto, sei un grande artista, strasupportato. Applauso! Applauso! No, scherzi a parte, comunque non sono gli unici ambiti per cui le figure come le mie prestano la propria creatività. Direi che ce ne sono molti altri, tra le quali, per citarne alcune, sono nel board della Fondazione di Venezia, che si occupa di cultura e di rigenerazione urbana. Sì, anche con Matera hai qualcosa a che fare, esatto, no? Esatto, il Comitato Scientifico e Culturale di Matera, Capitale della Cultura, è un'altra bella realtà dove poter esprimersi e dove poter intercettare l'innovazione che serve poi a trasferire al territorio, al pubblico che visita la città, ma soprattutto alle nuove generazioni infondere un'idea diversa e insomma un'opportunità in più. Allora, vorrei raccontare agli amici di Radio 24 che Felice ha iniziato la sua attività da creativo facendo girare i dischi, no? A me piace molto questa cosa perché oramai per me il disc jockey è un musicista contemporaneo, un musicista gira dischi. E tu l'hai fatto questo lavoro per parecchio tempo, anzi credo che abbia condizionato anche tutto quello che poi hai fatto in seguito. Beh, è stata sicuramente la mia università, perché attualmente sono un autodidatta a tutti gli effetti, per cui non sono il frutto di un percorso accademico e non vengo dalle università, per cui la console è stata la mia vera università e la pista è stata il primo banco di prova, i voti arrivavano dalla pista. Detto questo, ho fatto il DJ per 20 anni. La creatività combinatoria, che è fondamentale per un DJ, ma assomiglia alla stessa che usa un musicista. Ho visto che a Trombà piace molto la parmigiana, anche lì tutti si esprimono nel combinare in un modo diverso le melanzane. Però anche con te, Felice, lasciamelo dire che sei un grande artista, andiamo sempre a finire là, perché una volta per parlare di creatività con te io ti ho detto: che cos'è la creatività oggi? E tu mi hai risposto seccamente, eravamo anche con Domenico Sanna, bravissimo pianista, mi hai detto: è fare un buon pane e pomodoro. È difficile da immaginare e paragonare la creatività di un artista del passato, che ne so, se pensiamo al Rinascimento, che è un periodo che tu conosci molto bene vivendo a Firenze, quindi che ne so, Leonardo da Vinci, Giotto, sì, Raffaello, tutti gli altri, paragonato allo chef che fa pane e pomodoro. Ma lo faccio pure io. Sembrerebbe, lo è una metafora, però se ci pensi bene, la creatività è anche quello. Intanto perché vorrei sfatare il mito del genio creativo, sai, questa visione del creativo baciato da Dio che improvvisamente viene fulminato da un lampo di genio ed è più figo degli altri. Io non ci sto dentro, no, perché a quella cosa. Tromba stava aspettando il lampo creativo. Beh sì, mi sa che lo posso aspettare. Anche se sei un po' fulminato quello tu sì, di tuo. Quello sì. Ma la creatività è il lavoro duro. Sono momenti di idee che devono essere concretizzate, è un preludio di immaginazione, di sogno che poi deve sfociare in un qualcosa di pratico e di tangibile. Punto. Ecco, qualcosa di pratico e di tangibile anche per le nostre orecchie arriva da Electrophase, l'album si intitola Electric City, il brano in francese è strepitoso e anche molto sexy. Soundcheck. Il suono della musica. Beh, lui ha un nome strano, ma anche il titolo del brano non scherza. Lui si chiama ODC, il brano è NNGE. Qui al soundcheck di Radio 24, anche questo signore da tenere d'occhio, perché racconta un po' la storia del rap e dell'hip hop in questa produzione. C'è un po' di tutto, le cose moderne del sound tipico di Chicago, ma anche il primo rap, proprio quello dei Rapper's Delight, e anche qualcosa di gangsta. Eh sì, mischia un po' tutta la tradizione rap. Lui si chiama Amir Mohamed El Khalifa, ha origini di Bergamo. Sudanesi, sì. Proprio di Bergamo. Infatti ha una critica. L'amico di Salvini, sicuramente, sì. No? Lui viene da Washington, ha una critica molto particolare nei confronti, ovviamente, di Trump, soprattutto in questo periodo in cui sono state anche revocate i visti di ingresso a diversi musicisti non di origini. Non mi stai dicendo nulla di nuovo. Insomma. Sì, però lui l'ha cantato spesso nei suoi brani. Come ha fatto Snoop Dogg, ha fatto un video terribile su Trump. Ha fatto anche di recente un video Snoop Dogg contro Trump. Lui però appunto mischia tutta la tradizione del rap, ma soprattutto l'innovazione che ha portato anche Kendrick Lamar, che a sua volta ha ripreso, diciamo, i The Roots, che sono stati i primi veri e propri musicisti a suonare rappando praticamente. Lui è un convinto sostenitore di questa scia del rap. Felice Limosani, nostro ospite, Felice Limosani, nostro ospite al Soundcheck di Radio 24, un creativo fra i miei preferiti ormai da tanto tempo. E anche la cosa bella è che fai cose assolutamente diverse fra di loro, installazioni minimal e invece anche delle opere gigantesche, sempre però con un gusto molto particolare, una grande ricerca. Dietro tutto quello che fai io ci vedo sempre un grande studio, non solo nella tecnica, ma proprio uno studio profondo nel linguaggio e nel messaggio. Non facciamo partire l'applauso in questa occasione, ma lo faremo dopo. Veramente complimenti. Su Grazie. Cosa stai lavorando adesso? Ovviamente la multidisciplinarietà ti impone di studiare, ma ti espone anche a dei rischi? No, ad accettare lavori controversi, diversi, e soprattutto, visto che comunque non mi piace ripetermi, non posso mai massimizzare l'esperienza di lavori precedenti e applicarla semmai in cose che sto per mettere in scena, diciamo così. Comunque sia, ritengo che il concetto di multidisciplinarietà riprenda un po' quello di cui si parlava prima. Se vuoi, il DJ è una buona metafora, ma oggi nel mondo contemporaneo mettere insieme, anche prima Tromba parlava dell'artista che abbiamo appena ascoltato e diceva mischiato, cioè questo concetto di mischiare secondo me è una cosa su cui spendere tre parole, nel senso che cosa fa un new media artist? Intanto new media vuol dire usare tutto, soprattutto le tecnologie, soprattutto senza limiti, cinetica, campi magnetici, digitale, analogico, cioè no limits, perché il tema è questo: perché circoscrivere una cosa in un campo ben definito? Uh-huh. Questo è un limite. Dopodiché io ho sempre lavorato con questa idea di rimuovere i limiti tra il design, l'arte, la cultura, l'esperienza e il puro intrattenimento, perché è l'unico modo per fare una cosa nuova, altrimenti se così non fosse basterebbe dire io sono un architetto, ok, uh-huh, mi occupo di architettura, sì, sono un artista, e fai l'artista di che tipo? Mm. Pittorico, scultore, mm, sono un musicista, ingegnere, sono un avvocato, sono Tromba, mi occupo no, è stata automatica di musica, di musica voglio dire, musica acustica no, ma lui ha una particolare vabbè, lascio mi occupo di tante cose, di tante con questo cognome, sei multidisciplinare. Il vero punto interessante è che quando ti emancipi un po' da questo concetto ristretto del vedere le cose, le metti in relazione e cominci a vedere come interagiscono, è lì che parte la novità, è lì che comincia l'entusiasmo, perché cominci a vedere reazioni inaspettate, cominci ad aprire nuovi percorsi, cominci ad essere quel linguaggio nuovo, per cui ultimamente vedo che spesso quando descrivono alcuni lavori cominciano a definirlo una cosa alla Limosani. Mm. E questo mi piace, perché vuol dire aver, come dire, aperto un percorso a cui gli altri poi possano non tanto appoggiarsi, ispirarsi. Perché no? Bene, ci stiamo elevando oggi con Felice Limosani qui al Soundcheck di Radio 24. Torniamo fra pochissimo, perché sta anche per arrivare l'informazione della nostra radio preferita. E chiudiamo, Tromba, che facciamo questa prima parte con Odyssey ancora? Sì, un altro brano tratto da The Iceberg. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Seconda parte del Soundcheck di Radio 24 con Gegé Telesforo, Francesco Tromba e la partecipazione questa sera di un nostro caro amico ma anche sostenitore. Sono felice di sapere che fra i nostri radioascoltatori fedeli c'è anche un artista del calibro di Felice Limosani, che ha iniziato la sua attività, la sua carriera partendo dalla musica come disc jockey e oggi invece uno dei creativi italiani più richiesti nel mondo. Tantissime installazioni importanti realizzate anche per alcuni dei musei più importanti del mondo. Le tue cose sono state proposte anche al Louvre di Parigi, un po' come la Gioconda. Come hai fatto? No, piedi per terra. Diciamo che il Louvre è una di quelle realtà disponibili ad accettare anche nuove espressività. Ma vedi, è modesto, dai, no. mica Tromba fa una cosa e la porta. Vabbè, io sicuramente non esporrò mai. Sotto la piramide, Monsieur Tromba. No, mi ricordo che una citazione fece un giornalista quando guardava le tue opere, cercava di capire bene cosa, e che cosa disse? Volessi, diciamo, rappresentare. Lui disse: non ho capito bene cosa fa, però complimenti per il signor Limosani perché lo fa benissimo. Ah, perché tutto quello che fa, è vero, mi ricordo questa cosa, però adesso abbiamo capito bene che cosa fai o no. Ma intanto tu lo hai capito, ecco, la prima cosa, tu hai capito che cosa fai o no? Mi faccio l'applauso da solo? No, te lo facciamo noi, prima dicelo, poi te lo facciamo. Io ho ben capito cosa faccio, nel senso che per me l'obiettivo è quello di non limitarmi e di spaziare. Poi il fatto che io passi dalle installazioni artistiche alla curatela di mostre interattive, alla costruzione di ambienti immersivi, sono tre mondi radicalmente diversi. E questo è un problema mio, nel senso che se da una parte c'è bisogno di creatività, da un'altra parte c'è bisogno della concretezza che serve per mettere veramente in pratica con dei progetti credibili questi tre mondi. Io ho capito però una cosa, che sempre più il pubblico ha bisogno di essere coinvolto nelle attività, non solo da un punto di vista concettuale, come farebbe l'arte, con dei messaggi spesso anche molto profondi e con delle cose non sempre chiari da decifrare. Cioè, quante volte vi è capitato di vedere un'opera e dire, come direbbero in Sicilia, mi piglio po' culo? Voglio dire, quindi io mi sforzo nell'essere semplice, far passare un messaggio che non sia profetico o, che ne so, il monito, sai, quelle cose un po' da maestrino, e soprattutto curando molto la parte sia estetica sia di intrattenimento, perché venendo dalle discoteche degli anni Ottanta io non considero affatto l'intrattenimento un linguaggio banale, così come non mi permetto di giudicare la cultura come qualcosa di noioso. Spetta a noi saper stare nel mezzo. Però è facile dirlo adesso nel tuo caso, no, Felice? Perché tu hai acquisito credibilità per lavori che hai fatto all'estero, poi la tua fama è rientrata nel nostro paese, ma in un paese come l'Italia, che è un paese fatto di lobby, un artista può essere untaggable, come dici tu spesso? Ma allora, intanto io mi sono affrancato dal circuito squisitamente artistico, che spesso e volentieri è un mondo di lobby ed è anche un mondo che si basa su principi di pura economia e finanza. Io mi sentirei un attimino più un cane sciolto, e quindi francamente, se qualcuno mi dovesse dire che sono o non sono un artista, mi frega il giusto. Mi piace più l'idea di pensare, come cito il titolo di un testo che suggerisco a tutti leggere, l'arte si sia espansa in una maniera talmente, come dire, talmente potente, dove nessuno più si può permettere di dire che cosa sia arte e che cosa non lo sia. Cioè, mi affranco da questa, da questa etichetta, da questo cliché. E fai bene, però poi devi rispondere alla mia domanda. Tromba, che cosa abbiamo in programma adesso? Shafik Hussein. Sempre amico di Salvini questo? No. Insieme ad Anderson .Paak. Tra l'altro Shafik Hussein è stato quello che ha aiutato Anderson .Paak quando rimase per strada dopo che era stato cacciato via dalla piantagione di medical marijuana in cui lavorava. È stato quello che l'ha introdotto, diciamo, nell'ambiente della musica. Questo lavoro, che si intitola The Loop, doveva uscire 2 anni fa, però non è uscito e uscirà piano piano. Questo è il primo singolo, che si intitola It's Better For You. Diciamo che Shafik Hussein ha aspettato che Anderson .Paak diventasse famoso per spornare l'opera, giustamente, no? Una bella musica. Sì. Soundcheck, il suono della musica. Attenti avranno riconosciuto Seven Nation Army, il successo dei White Stripes di diversi anni fa, qui riproposto dalla voce riconoscibilissima adesso di Anderson .Paak, artista, cantante, batterista e compositore che noi abbiamo iniziato a suonarvi qui al Soundcheck ormai un paio di edizioni fa, però quest'anno si è aggiudicato una nomination ai Grammy Award e oggi è molto richiesto. Mi auguro sinceramente che qualche festival estivo in Italia abbia il buon gusto di chiamare Anderson .Paak. In questo caso secondo me non lo vedremo, perché comunque è sottovalutato come nome, nel senso che secondo me dal punto di vista concreto ci avrebbe tanti ascoltatori, però i direttori dei festival non ci credono tanto. Vabbè, però per esempio nei nostri festival quest'estate vedremo Chance the Rapper, che siamo fuori budget. Ma è questa la cosa della quale io voglio parlare con Felice Limosani, nostro ospite, perché in Italia bisogna sempre andare sul sicuro su tutti gli aspetti artistici. Cioè, bisogna aspettare che un artista diventi consolidato e abbia una fama ormai accreditata per entrare in certi circuiti. Ma non a caso il non esistono più i talent scout, no? Non a caso il jazz non è nato in Italia. È vero. È vero, sì, non a caso. Però potresti spiegare il concept? Il concept è semplice, non è una questione di come dire, musicale, è una questione di approccio e di mentalità. Le cose poi accadono quando si crea un unicum tra cultura e soprattutto tra comunità. Quindi salire su un palco e condividerlo, come nelle jam session, vuol dire che c'è un gruppo che desidera condividere, che desidera stare assieme, che desidera arrivare a un obiettivo prendendosi per mano. In Italia forse questo processo arriva in un modo più individualista, cioè lo facciamo da solisti. Lo facciamo da solisti, quindi che cos'è? Pensando agli americani, non abbiamo il senso della bandiera, dell'appartenenza, del gioco di squadra, che cosa? Non vorrei avventurarmi in questo. Una cosa, ti racconto di un'intervista di un pianista polacco che dopo in un'intervista disse io apprezzo molto le nuove generazioni quando salgono su un palco e suonano, le loro esecuzioni sono strabilianti, sono puntuali, l'unico problema è che quando loro suonano sembra che i loro spartiti siano stati tirati, siano usciti dalle loro tasche e non dai loro cuori. Mi sembra questa un po' la cifra che fa la differenza. Noi semmai arriviamo con una preparazione perché vogliamo arrivare a un obiettivo, con un'ambizione. Dall'altra parte invece c'è un senso più legato proprio all'espressività, alla cultura che c'è dietro la musica e proprio al senso profondo di creare qualcosa. Soundcheck, il suono della musica. Eh sì, ogni tanto lo devo ascoltare. Melanin Man, i Brass Tracks con la partecipazione di Masego, anche questo un artista contemporaneo che teniamo d'occhio. Eh sì, la storia di questa canzone viene fuori un po' per caso, soprattutto le parole, perché ricorda Masego che lui salì su un taxi, e di solito in America i taxi, quando vedono un afroamericano che chiama il taxi, non si fermano spesso, diciamo. E invece il tassista si fermò subito, lo prese in macchina e gli disse: no, tu devi andare orgoglioso della tua pelle, tu sei un re. Ecco, io credo, anch'io credo che, per esempio in Italia, ecco, l'Italia deve convincersi che sta diventando un paese multietnico, e lo diventerà come è diventato la Francia un paese multietnico. Se si va a Parigi, effettivamente non sai se ti trovi in quale capitale, una capitale europea o dove. Eppure credo che anche per questo motivo, artisticamente parlando, Parigi abbia avuto negli ultimi anni un impulso vitale molto forte. Quindi dovendo fare una riflessione proprio con Felice Limosani, noi italiani che non abbiamo avuto il rispetto del nostro passato perché abbiamo dimostrato di non essere stati in grado di gestire e di rendere anche da un punto di vista economico vitale l'arte che abbiamo ereditato forse ingiustamente dai nostri avi, no? Parlo proprio di cultura, scultura, ingegneria, architettura, tutto quello che ha il nostro paese e che è stato capace di distruggere, forse potrebbe imparare qualcosa i nuovi amici che stanno attraversando il Mediterraneo. Da imparare c'è sempre da imparare. Io mi soffermerei un attimino sulle dinamiche, perché comunque ibridarsi è alla base dell'evoluzione. Certo è che tutto ciò deve essere fatto con armonia. Pensiamo alla musica, per esempio, quando si parla di fusion o quando si tenta di ibridare i generi, lo si fa ma sempre con un'idea e un progetto preciso che deve corrispondere a dei tempi, delle emozioni, dei raggiungimenti. Quindi io voglio dire sì, ok, però attenzione che a monte bisogna fare un lavoro che faccia sì che non vorrei parlare di immigrati, io vorrei parlare di multietnicità. Tutto questo deve essere ben come dire, inserito in un progetto comune dove nessuno deve disturbare l'altro, ma al contrario l'altro deve avvalorare l'altra cultura e soprattutto rispolverare un po' quel senso umano che c'è forse nella dimensione dell'ospitalità, del non vedere il diverso come il forestiero, come colui che arriva per sporcare o per distruggere o per togliere. Insomma, mi sembrerebbe una visione molto vecchia. Sta di fatto che noi d'altro canto dobbiamo fare in modo che quell'innesto si combini nel modo più armonioso possibile, sia per noi che per loro. Quando tu realizzi le tue installazioni, le tue opere, quanto sei multietnico? Cioè, ti concentri su questo aspetto o crei qualcosa per un gruppo ristretto di persone? La multietnicità oggi si gioca sulla base dei dispositivi elettronici, per essere pratici, perché i cosiddetti millennials sono, per quanto mi riguarda, il sesto continente. Sono un numero abnorme che da est a ovest vivono il pianeta e si assomigliano tutti perché sono cresciuti in una dimensione che li ha accomunati: internet, la tecnologia come base, e con una serie di differenze culturali che poi in qualche modo si sono omogeneizzate. Detto questo, io faccio molta attenzione che il lavoro sia condivisibile, che susciti veramente un'emozione o un, come dire, una curiosità o un fattore emotivo per cui si sente il desiderio di condividerlo con qualcun altro. È questo il senso che spesso do al mio lavoro. Deve funzionare molto bene in un cellulare, nello schermo, perché questo è molto importante per le nuove generazioni: poter condividere quello che mi accade qui ora in questo momento, semmai per un gruppo ristretto di persone, e riportarlo in rete affinché entri nel flusso delle conversazioni dei social network, affinché qualcuno possa anche dire la sua in un modo negativo rispetto a quell'esperienza che vive, o comunque espandere l'ingaggio che ci deve essere in altri luoghi del mondo di persone che semmai in quel momento non possono essere lì con loro. Mi sembra anche un gesto di condivisione e di generosità, perché no? E io voglio essere generoso e voglio condividere l'arte e il talento di Daimé Arossena, da Cubafonia o Cubafonia Valentine, bellissimo. Soundcheck, il suono della musica. There I am. Che composizione, There I Am. Ecco, per esempio, stavi parlando di telefonini, di internet, lo sto dicendo a Felice Limosani, nostro ospite. Intanto siamo in chiusura, quindi dobbiamo accelerare i tempi. Però, per esempio, questo brano, questa composizione bellissima, scritta dal pianista Ted Case, pianista della nuova generazione, coinvolte le voci di Michael Maio, bravissimo, e Amber Navran, non si trova, discograficamente parlando, su nessun supporto fisico, ma solo ed esclusivamente sulla pagina di SoundCloud di questi signori. Michael Maio, Amber Navran, Ted Case al soundcheck con There I Am. Che composizione! Devo dedicare una puntata a Michael Maio, che secondo me diventerà uno dei cantanti più forti nel prossimo futuro. Proverò a contattarlo, vediamo se mi risponde. Bravo, questa è una bella cosa. Felice, guarda, io ti do la colomba del soundcheck. Questa è la colomba per domani. Domani Pasqua, quindi ti faccio gli auguri. Grazie per essere stato con noi. Grazie. Come festeggi domani? Con la mia famiglia, la cosa migliore sempre, con la mia amatissima Doris e forse al mare, vediamo. Al mare, quindi questa è l'installazione che stai creando per affrontare la Pasqua e poi la Pasquetta. Non voglio neanche chiedere al tromba che cosa mangerà domani. Indovina. No, non lo dire, guarda, non lo dire perché scateneresti un putiferio. Va bene, io voglio ringraziarvi e intanto poi personalmente ringraziarti ancora una volta per un lavoro fantastico che abbiamo fatto insieme, perché tu mi hai concesso il privilegio di avere una tua installazione su una mia composizione cantata poi da un grande artista come Alan Hampton. Ultimamente ne abbiamo parlato perché siamo stati in tournée per il progetto Sounds for Children, quindi questo brano intitolato Next è seguito poi nella versione live da Joanna Titters. Potente. Sì, ha colpito moltissimo, però tu hai fatto un'installazione. Consiglio agli amici di andare su YouTube e cercare Next con la voce di Alan Hampton per vedere l'installazione, l'animazione che ha creato Felice Limosani. Non pensavo che tu fossi abile anche nel fare questo. Ma intanto mi hai ispirato fortemente, perché tu forse non ricordi, ma provasti a farmi sentire il giro di Next e raccontarmi l'armonia, che in apparenza è semplice, in realtà ha una complessità inaudita. È vero. E poi mi è piaciuto molto il messaggio, a parte tutto quello che c'è dietro, perché sostenere UNICEF credo che sia un dovere avere. Sostenere un amico di talento come te mi sembrava Grazie. Il minimo che potessi fare. Però aver condensato tutto in un concetto, Next, mi è sembrato potentissimo, e quindi la mia immaginazione è partita da cosa c'è dopo. E vuoi sapere qual è stata la scintilla che ha fatto il video? Vabbè, intanto ho usato dei codici semplici per un bimbo, perché una bolla di sapone, una stella, una mongolfiera, un bimbo la riconosce subito e si fa il suo sogno e si fa il suo film. Però mi sono ispirato a quel giorno. Io noto sempre quando una madre lascia un bambino a scuola, all'asilo, il primo giorno. Quando la madre lascia la mano di quel bambino il primo giorno di asilo, ecco, lì c'è un momento importante della vita di ogni bambino, e lì c'è un ottimo next, perché da quel momento in poi che prendi il volo, diciamo così, cioè ti separi dalla mamma per prendere il volo, e infatti il video è Next che vola dopo aver lasciato le mani di una mamma. Grazie a Francesco Tromba, grazie a tutti voi, grazie di cuore a Felice Limosani. Noi ci risentiamo domani alle 19:15 su Radio 24, a meno che non succeda qualcosa di eccezionale, però noi ci saremo pronti per voi con la nostra musica per festeggiare insieme Pasqua. Auguri a tutti di cuore da Gegè Telesforo. Grazie Felice. Ciao a tutti, auguri. Buona Pasqua.